Buon pomeriggio a tutti, ciao Freddy. Ciao Carlotti. Coach Dan Peterson, buongiorno. Amici sportivi, buongiorno a tutti. È tornato con noi Attilio Caia, ciao coach. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno coach. Ciao Attilio. Coach, io vorrei partire da più che dai playoff, da domani, da Ginevra, Mondiali 2014. Siamo tutti in attesa. Ma io sto andando questa sera perché ho fatto parte del comitato che aveva la presentazione lì. E ovviamente abbiamo le dita incrociate. Io dico che quello che hai detto lì a dicembre, 33% a testa. Cina 33%, Italia 33%, Spagna 33%. Forse vedo leggermente favorita la Spagna perché hanno fatto un lavoro massiccio sull'internet, le votazioni, quelle cose. Poi hanno gli impianti e sono sulla cresta dell'onda adesso per quanto riguarda il basket. Certo che un mondiale in Italia ci cambierebbe la vita a spicchi, cosa dici? Assolutamente, ci vuole cioè, Spagna già vola, lasciamo l'Italia volare, che spiegare le ali, vediamo cosa fa. Certo, è Attilio, Palazzetti, interesse del movimento. Interesse del movimento, poi approfittiamo anche dei giocatori che sono NBA, sarebbe veramente un cerchio che si chiude e da qua al 2014 la pallacanestro potrebbe far veramente un boom e tornare anche a livello europeo e mondiale agli antichi splendori. Sì, poi vediamo, dovrebbero arrivare anche un po' di quattrini per tornare agli antichi splendori. Quello perché può essere una buona base. Ascoltatori, 800240024, numero verde, coach, in piena gara playoff, Pesaro con coraggio e con un hard da 34 punti, rende la vita difficile a Siena, ci fosse entrato qualche tiro a Michael Hicks, magari staremmo parlando di un altro risultato, sì, e non del 2-0 per i campioni d'Italia. Ma è chiaro che contro Siena nessuno può mancare e tutti devono giocare. Una partita perfetta, quasi sono riuscito a fare, mancava qualche piccola cosa lì per fare la differenza, però onore a Pesaro per aver fatto una partita con i fiocchi e forse adesso è troppo tardi per loro perché vanno a Siena e perderanno 3-0, però se fosse stata un'altra partita in casa, chissà se non avrebbero avuto la convinzione di poterci farlo, perché si sono preso convinzione con questa partita. Coach, però scusa, si è visto secondo me proprio come a Pesaro manchino giocatori con esperienza di quel tipo di partite, insomma. È una cosa a parte che Siena ha tutti i vantaggi del mondo, stesso general manager da 20 anni, stesso allenatore da 3 anni, più mettiamo per Pianigiani altri 15 anni nel vivaio, ok? Cioè è lì da 20 anni pure lui, i giocatori sono tutti lì, i vari Caucanes e compagnia, Stone da lì almeno 3 anni, quindi la continuità lavora a loro favore. Poi hanno giocato tante partite importanti, immagazzinato tanta esperienza e invece Pesaro non ce l'ha. Poi magari nel passato Carlton Myers ha fatto qualcosa, ma gli altri a livello di Final Four, le altre cose non le hanno fatte. Cosa ti dico? Che ex anche di Pesaro, ma soprattutto di Milano, l'anno scorso è uscito nei playoff semifinale proprio contro Siena. Attilio, Siena è attaccabile, come dice qualcuno, oppure è attaccabile ma non dalle squadre italiane in questo momento? No, beh, attaccabile io penso di sì, poi dopo è chiaro che alla lunga su 7 partite ha qualcosa in più, perché come diceva il coach è l'esperienza, l'abitudine a certi risultati. Ieri McIntyre ha fatto una brutta partita obiettivamente, però il canestro della staffa è stata una sua invenzione, una grande giocata, quindi questo sono cose di mentalità e di abitudine dei grandi giocatori, che loro sono consolidati, le altre possono essere in formazione, cioè stanno crescendo, può essere questa una buona base, però sarebbe importante da continuare su questa, ad esempio quello che non è stato fatto purtroppo per Roma l'anno scorso, quando erano arrivati anche a vincere una partita, un'altra andarsi vicino, poi avevano due giocatori molto importanti come Hawkins e come Lorbeck e purtroppo per problemi contrattuali sono andati e hanno fatto altre scelte. È chiaro che quindi se quest'anno Roma secondo me ha già due giocatori molto interessanti che sono Jaber e Hudson, che sono giocatori di alto livello, l'anno prossimo aggiungerne altri due a questi. È uguale, vale per essere discorso per Milano e per la Virtus Bologna o la Benetton. A proposito di Virtus Bologna e Benetton, ieri sera parlavo con Flavio Tranquillo che era a Bologna, ha visto quella partita, mi ha detto partita strana, intensità non da playoff, quasi fossero due squadre scariche o che non hanno così tanta convinzione per andare avanti, per provare ad attaccare Siena. È strano, coach. No, ma Io non penso che stiano pensando loro a Siena, adesso loro vogliono andare avanti e vedere se possono andare in campo con Siena. Tornando a Siena, secondo le difficoltà, come ha detto Attilio, nessuna squadra in Italia riesce a battere Siena 4 volte o neanche 3 volte nel quarto finale e semifinale. Cioè, Pesaro avesse vinto ieri, abbiamo vinto! È una partita solo, ok? E l'altra cosa di Siena, che loro sono in grado, come ha detto Attilio, McIntyre non è in serata, però la canestra importa. Loro hanno una squadra che può giocare addirittura male e vince lo stesso. Questo è il marchio della grande squadra. Per quanto riguarda Treviso e la Virtus Bologna, strano vedere due squadre scariche come sono state loro, perché questo non esiste assolutamente. C'è proprio, sei nel playoff, deve giocare, cioè, e poi la vediamo ogni tanto, soprattutto prima della bella, hai capito? La gara 2, ok, se la squadra di casa vince, siamo 1-1, e tutti danno le cose per scontato, ma non c'è niente per scontato. Se Treviso va lì e sbanca Bologna, vince in casa 3-0, sono avanti, cioè poi andiamo a leggere con Siena, sì. Cioè di non affrontarlo. E anche io ho visto, voi sapete che Sport Italia commento l'NBA, i Houston Rockets giocavano contro i Lakers a Los Angeles, gara 7, la bella, cioè avendo vinto alla grande gara 4 e gara 6 a Houston, vanno in campo scarichi piatti come le frittate, hai capito? Cioè proprio come le crepes, cioè come è possibile questo? Sono cose per me inconcepibili, ho pensato alla mia carriera finale, abbiamo perso, abbiamo giocato magari male, ma per 1 punto, 2 punti, 3 punti, ma non assente totalmente, non asfaltate, assolutamente no. Intanto Cosi, visto che hai citato l'NBA, diamo intanto il risultato della notte, che è a sorpresa, perché Denver ha vinto a Los Angeles contro i Lakers 106-103. Io non sono mica tanto sorpreso, cioè io ho pronosticato Los Angeles, ma anche qui con Guido Bagatta su proprio NBA News ho detto attenzione, e anche Guido ha detto la stessa cosa, perché Denver atletica in una missione e Los Angeles, cioè, che va sotto di 29 punti a Houston, cioè, non è convincente. Denver convincente, doveva Denver vincere gara 1 se Anthony Carter, che ha giocato qui in Italia, non fa una rimessa da plotone di esecuzione, loro vincono la partita, sono 2-0 a Los Angeles, quindi i Lakers devono stare attenti. Vorrei tornare ai playoff italiani, Attilio. Milano può chiudere contro Teramo questa sera. L'altra sera ho visto Milano, Teramo è una squadra meravigliosa, Capobianco allenatore dell'anno, giocano benissimo, ma sono pochi per giocare ogni 2 giorni, quindi arrivano a costruire, ad esempio emblematico l'ultimo tiro, 19 secondi da giocare, una vita, puoi costruire un buon tiro, cioè hai Jesse Carroll che è on fire come direbbe il coach, e vai a tirare da 3 punti con Brandon Brown, un tiro che Milano insomma ci avrebbe messo la firma per chiudere con quel tiro. Non hanno, purtroppo per loro, non hanno margine di errore perché essendo pochi hanno bisogno che Poeta giochi bene e come sta giocando, hanno bisogno che Carroll giochi bene come sta giocando, avrebbe bisogno che Moss giocasse bene come ha fatto l'anno e invece la prima l'ha un po' steccata, avrebbe bisogno che Brown giocasse, avrà bisogno che dalla panchina Hoover, il giocatore più esperto, desse qualcosa, invece non lo dà, e qui è chiaro che sono talmente pochi, sai, Milano ne ha 10 di giocatori, quindi se non riesce a dare Vitali può dare Jobey Thomas come ha dato là, può dare Hawkins come ha dato qua, può dare Mordente, se ha un problema con i lunghi può dare è chiaro che il numero alla fine conta, e nello sport purtroppo anche le favole belle Teramo si meriterebbe anche una vittoria, poi dopo è chiaro che è difficile ribaltare a una vittoria, però sono talmente contati che non possono permettersi che uno o due giocatori sbaglino perché non hanno altre alternative. E infatti il coach Capobianco ha detto proveremo a fare la partita perfetta per 40 minuti perché non l'hanno mai fatta in questa serie. Io volevo chiedere a voi, intanto che abbiamo analizzato tutti gli accoppiamenti, anche quello della lottomatica contro Biella ha opposto un grandissimo Aradori, un grandissimo Gari, con gli italiani è riuscito a impattare la serie. Coach, Biella in casa sappiamo è veramente una cosa, anche Milano ha perso lì di diversi punti, Becchi fa un grande lavoro, loro sono, e lì abbiamo l'esempio di quello che io sto parlando, una squadra con una carica, cioè tu, io ho visto in televisione la partita e Becchi era proprio sudato, c'è proprio uno che è dentro anche lui, e la squadra, una lezione che ho imparato io quando ero giovane, e un mio professore ha detto la squadra rispecchia la personalità dell'allenatore, e lì hanno rispecchiato lui era molto carico e la squadra è stata carica alla milionesima potenza, quindi era meritata questo, e non dico che hanno messo della serie in dubbio, però anche se perdono a Roma, poi tornano a Biella, vincono la quarta, quando tu giochi la bella e se tu sei la squadra in casa, tutta la pressione su di te, in trasferta sei rilassato perché non hai niente da perdere, quindi Biella deve solamente pensare a fare le loro partite, portarle a 5 partite, poi andiamo a leggere. Cosa, volevo invece una tua valutazione su un giocatore di Milano che ha cambiato pelle, Mike Hall. Non mi piaceva inizio stagione, l'ho detto molte volte, è un giocatore strano, un giocatore molto atipico, può anche portare palla come l'altra sera contro Teno, ma ha fatto molto spesso, credo per scelta, no? Lasciavano il primo passaggio a Michael e questo scendeva in palleggio, non ho capito bene le motivazioni di questo, però è successo diverse volte, può fare tante cose, sa fare tante cose, sta anche diventando un po' leader tecnico di questa squadra perché prende i tiri più importanti. Well, innanzitutto io non sono del tutto convinto che deve essere sempre il playmaker designato a portare avanti la palla, cioè io avevo Mike D'Antoni e qualche volta raddoppiato lui e dava la palla addirittura a Premier, che era tutto meno che un grande palleggiatore, ma ha portato avanti la palla perché è un lavoro di squadra, cioè se tu guarda, tu hai menzionato addirittura Poeta, ok? Poeta, innanzitutto non sono del tutto convinto che lui sia un playmaker puro, grande ha la personalità del playmaker, però è un gioco attaccante, un po' più come guardia, eccetera, e vediamo queste cose negli ultimi 5 minuti, ok? Però il playmaker oggi è anche cambiato, ok? Playmaker, guarda Rajon Rondo, tutto meno che un playmaker, non è come John Stockton, ok? Però Rondo è uno che fa la sua parte, penetra qui, penetra là, come faceva Archibald tempo fa, quindi la distribuzione del gioco, della responsabilità, del peso è anche una buona idea, cioè se io sono allenatore, per esempio faccio un altro esempio di Teramo o Moss e anche Poeta, dico Moss porta avanti la palla, tu sei Poeta raddoppiata, perché alla fine non vogliamo Poeta spompato, il playmaker spompato, è anche idem per Milano che Vitale e compagnia, tu vuoi la gente fresca per gli ultimi 5 minuti, quindi se questo vuol dire distribuzione del gioco, tanto meglio. Poeta gran giocatore, ma va un po' a una velocità sola, E lui non è del tutto arrivato ancora, e questo è bello perché ha grande personalità, gioca bene, grande padronato in capo, ma lui ha tanto da imparare ancora, ma tanto. Che ne pensi, Attilio? Penso le stesse cose, con secondo me una cosa in più per Poeta, che è cresciuto molto. Certo. È cresciuto molto e anche a livello di personalità, sai, alla fine io penso che il giocatore perfetto è difficile che esista, ci sono delle priorità, quindi un giocatore, e la personalità secondo me è un aspetto molto importante, quindi lui ne ha, è cresciuto molto a livello tecnico, ci manca ancora un passettino, come diceva il coach, nella gestione degli ultimi tempi, però insomma siamo vicini anche a quello, se per caso non arriva questo è un giocatore quasi perfetto, quindi già di alto livello. Certo, se Milano avesse quest'anno il playmaker che avevi tu l'anno scorso, una squadra che non valeva questa, insomma, sarebbe ancora più competitiva. Melvin Booker. Sì, e ricollego quello che diceva prima il coach, secondo me anche Dusan Vucevic era un playmaker aggiunto, un giocatore che a volte sapeva togliere la pressione Booker, portare la palla a lui, iniziare il gioco, un grande conoscitore di pallacanestro, un giocatore che sapeva fare la scelta giusta sia a livello mentale che anche le basi tecniche a poterla fare, e quelli sono i giocatori che alla fine sono quelli importanti. Infatti nella partita ieri sera più difficile della stagione per la Virtus Bologna, dove veniva da 6 sconfitte di fila, Vucevic quintetto base, 18 punti, la sua miglior partita stagionale, e quello che all'inizio ha dato già il break, ecco, questi sono i giocatori che alla fine sono quelli che fanno la differenza. Prima di salutare il coach volevo chiedere ancora una cosa, prima di lasciarlo andare a Ginevra con le dita incrociate, naturalmente difficile discutere gli Oscar di questa stagione, no coach? A miglior allenatore capobianco, miglior giocatore Terrell McIntyre, miglior dirigente ovviamente Minucci, sua maestà Siena, miglior under 22 Gigi D'Antoni, hai qualche altra idea? No, sono questi, ok, cioè, anche io ho votato così, quindi assolutamente, anche se sulla questione dell'allenatore, il lavoro che ha fatto Lardo Arrieti era molto, io fra queste due scelte qua, per uno che fa terzo posto in Serie A con Teramo, dico ok, amen, okay, non c'è niente da dire. Poi anche tendiamo tutti a dare per scontato quello che fa Pianigiani, Pianigiani, Siena la squadra, sai, vincere 29, perdere uno, proprio è supplementare fra l'altro in trasferta, stanco dopo l'eliminazione Eurolega, questo è un capolavoro. Quanto a McIntyre è sempre più d'Antoniano, eh? Prima sì. Parlavamo di una partita brutta di McIntyre ieri, anche D'Antoni, ricordo qualche partita brutta giocata in Italia, magari 0 su 10 al tiro e poi fa 1 su 11 quello della vittoria. Ma guarda, tu hai detto questo al Ruben un secondo, andiamo una volta per Alibert a Livorno, D'Antoni fa 0 su 9 me la ricordo. Partita, ultimo tiro, pari punti, canestro 3 a casa, cioè proprio i campioni sono questi, ok, loro sono lì per 40 minuti e non 39. Grazie coach, buon ciao, viaggio. Ciao ragazzi, ciao a te, un abbraccio. Buongiorno, okay? Coach, grazie. Ciao, ciao. Palla spicchi. Ecco che torniamo con Coach Attilio Caio. Volevo una parola su Rino Lardo, perché i nostri ascoltatori più attenti sapranno, l'ultima volta che Attilio è stato nostro ospite, parlavamo proprio di questa situazione. Dato che nel suo lunghissimo curriculum ha anche una salvezza conquistata con Roseto in situazione analoga a quella di Rieti, l'altra volta Coach Attilio Caio diceva, beh attenzione, perché sono situazioni strane in cui però il gruppo sa compattarsi, sa tirar fuori delle risorse, delle energie che non puoi aspettarti, hai ragione. È quello che colui che fa riflettere, butta lì delle cose sul tavolo, i giocatori, il suo impegno, oltre che tecnico, ma ancora principalmente è motivazionale. Cioè, se è qui, si ha una grande opportunità di giocare, perché quando rimani in sei, giochi tutti obiettivi 30 minuti, cioè non è che si possa sbagliare coi cambi e così via. E quindi un giocatore sa che ha una grande opportunità, un giocatore sa che ha una grande visibilità, perché sei sulla bocca di tutti, tutti ti guardano, e c'hai anche il pallone molto più leggero, perché se perdi, vai male, ok, cosa vuoi fare? Cioè è scontato. Se invece fai un risultato positivo, viene amplificato in un modo incredibile, come è giusto che sia, perché dal punto di vista tecnico ci sono dei gap, perché se sei in pochi, se sei qualcuno magari dei meglio non c'è. Quindi è una situazione che a livello motivazionale, a spiegare questa, quando sei lì per giocare, soprattutto se hai giocatori giovani, come erano tutti quelli di Rieti, come lo erano anche me, io per esempio feci un grande affidamento Busca e Daniele Cavaliero. Sì. Busca, mm-hmm. Cavaliero, Malaventura, Casoli e Martinez. Però Cavaliero fece un campionato strepitoso. Sì, ma come fai ad allenarti? Cioè, perché dici, arrivi in partita e hai queste energie, ma come ci arrivi alla partita? Quando prepari allenamento, anche un lavoro di 3 contro 3, 4 contro 4, dove viene selezionato il tuo, spezzettato il tuo gioco d'attacco, dove vai con certi obiettivi, poi 3 contro 3 ti fa anche una buona forma, giocando ti migliori la forma, e sono giocatori che quel punto lì giocavano 30 minuti, sai, io faccio fatica a volte a seguire tutti quelli che hanno bisogno di giocare in 10 ogni volta. Cioè Dusan Vucevic l'anno scorso a Milano giocava con me 35 minuti a partita, due volte alla settimana, eppure sai, certo Danilo era giovane, ok, non c'è il problema, ma Vucevic, Booker non erano più giovanissimi, eppure hanno dimostrato di poter giocare ad alto livello tutta la settimana, due partite a settimana, anche con una certa, sempre a rincorrere le partite, sono partite che non puoi assolutamente sbagliare, perché una partita sbagliata ti può compromettere la stagione, quindi a livello di nervoso, però insomma se i giocatori si allenano bene, si preparano bene, possono giocare a certi livelli. Il problema è, certo, è che se uno non si allena bene, non si prepara bene, fa fatica a poi giocare tanti minuti. Primo ascoltatore di oggi chiama da Salerno, Paolo, buongiorno. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Grazie. Salerno non è stata mai una città di cultura, con cultura cestistica, devo dire. Non siamo mai andati oltre la Serie B2 forse 30 anni fa. Io ho 39 anni, sì, e sono da sempre stato tifoso di Cantù e mi ricordo gli Antonello Riva, gli Innocentin, i Marzorati. Come no. Ecco, due cose velocissime. La prima sul campionato italiano e su Siena. Secondo me è un peccato che il campionato italiano sia completamente, come dice Coach Peterson, asfaltato in continuazione solamente da Siena. E poi anche in Europa vediamo che c'è solamente Siena, sostanzialmente, nel gruppo delle otto più forti, tra virgolette, sì, da qualche tempo. E questo non permette, secondo me, al basket, che secondo me è il nuovo calcio degli anni 60, se mi permettete questa forzatura, perché è uno sport bellissimo che potrebbe prendere ancora più piede, con squadre che se la giocano, tra virgolette, fino alla fine, no? Sì. Secondo argomento è Cantù. Sì. Al di là della delusione, qui da 900 km di distanza rispetto a Cantù e alla Brianza, sì, sì. Facevo una valutazione tra me e me, che poi è il motivo principe per il quale ho chiamato e volevo sapere la vostra idea. E cioè, secondo me, nonostante l'allenatore sia un buon allenatore, la squadra non ha carattere. E questo secondo me ha inciso soprattutto nelle ultime 8-10 partite, dove Cantù aveva l'accesso ai playoff in mano e lo ha perso per assenza di personalità, secondo me. E in questi casi, ahimè, e vi saluto chiaramente, in questi casi è l'allenatore che non ha imprinting sulla squadra. Ma arrivederci e buona continuazione. Grazie Paolo, secondo me un po' più gli americani dell'allenatore. Ma io penso che compito... Ho l'impressione che a Cantù sia successo qualcosa di strano proprio alla voce americana. Hanno avuto un rendimento troppo alterno e discontinuo. Dal Monte ha fatto una squadra di grande carattere l'anno scorso, che costava anche meno, che aveva americani di minore pedigree. Invece ti faccio un esempio, se vogliamo, calcistico. Fallo. Cioè, quando l'allenatore Cooper, il suo compito è quello di portare la squadra primo in classifica all'ultima partita, 5 maggio, cioè all'ultima partita, cos'è, l'allenatore che deve dare le motivazioni? Cioè, i giocatori non sanno che quella partita lì è quella dello scudetto, è quella che si decide tutto. E qui siamo, cioè, l'allenatore Dal Monte ha fatto un ottimo lavoro, è riuscito per tutto l'anno a tenere la squadra a un certo livello. Quando Cantù ha perso il playoff alla penultima partita casalinga contro Pesaro, che era lo scontro diretto. Cioè, i giocatori a due brida alla fine non sanno che quella partita, cioè, l'allenatore ha le competenze di dare un gioco, di far capire durante la stagione che ci sono partite più importanti, ma quando arrivi all'ultima, quando arrivi alla penultima, cioè, non sono ragazzini di 15 anni, sono professionisti ben pagati che hanno già una loro testa, una loro esperienza, e sa benissimo che quella partita è quella decisiva. Quindi l'allenatore obiettivamente non è, se un giocatore non lo capisce da solo, vuol dire che è proprio chiuso, e l'allenatore non ha nessun margine per intervenire. No, poi abbiamo sempre un po' l'impressione che, insomma, tanti americani arrivino a primavera con il biglietto ero già in tasca, non abbiano poi tutta sta voglia di... Sì, ma sicuramente qualcosa a livello ambientale deve essere successo. Però sulla prima parte dell'intervento che ha fatto il nostro ascoltatore, ragione. Sì, però c'è l'altro lato, non sarà mica una colpa di Siena adesso, dire. Però è senz'altro un indice di debolezza, Pianigiani, del campionato. Sicuramente, però Pianigiani ha ragione quando dice che diventano antipatici perché vincono troppo e tutto quello che vuoi, però voglio dire, Siena è una risorsa, no? Secondo me la pallacanestro italiana non può essere certo. Un ma certamente non è certo colpa di Siena, è un fattore di debolezza di qualunque campionato, sia basket, rugby, quello che volete, quando sempre la stessa squadra vince. Però come dice Attilio, devono imparare da come Siena è arrivata lì, perché c'è arrivata dopo alcuni anni, no? Certo. Costruendo sui mattoni che ogni anno metteva. Certo, le altre invece fanno, smontano e ricominciano da capo, così non vincerai mai. No, Attilio? Sono lontani, rimani lontano, arrivi a un passo, arrivi a un punto, perché io dico veramente Roma l'anno scorso era arrivata a un passo da Siena. E io sarebbe bello immaginare un quintetto con Jaber guardia, Hawkins ala piccola, Hudson da 4, Lorbeck da 5, è un playmaker anche Giacchetti, per dire. Questa squadra qua è una squadra che avrebbe veramente più potuto. Più Becirovic della panchina, più hanno veramente, e quest'anno ha fatto veramente degli acquisti azzeccati. E però anche quest'anno Roma può arrivare in finale, può arrivare vicino, c'ha dei giocatori di altissimo livello. Io secondo me, con l'inserimento di un altro, questa squadra più un altro paio di giocatori, può veramente provare a insediare Siena. Insediare Siena vuol dire ci arrivi per gradi. Se l'anno scorso hai vinto una partita, quest'anno l'obiettivo è vincerne due, e l'anno prossimo vincerne tre, e poi insomma che arrivi per gradi, perché Siena ha lavorato talmente bene, e lì i meriti vanno da Minucci, e alla fine il capo è sempre quello che, certo, che organizza il tutto, e quindi colui che dà le idee, colui che dà i programmi, colui che fa tutta la programmazione, che va a prendere i giocatori importanti, e la stessa fiducia che è stata data Simone Pianigiani, ma vuol dire che c'aveva Minucci, aveva visto benissimo, e il merito, grande merito poi di Simone Pianigiani è quello di, insomma, vincere 29 partite su 30. fare una stagione, cioè non è facile, vincere non è mai facile, e sono discorsi da bar che con quella squadra lì tutti vincono, no, certo. No, sono proprio, cioè, se parliamo di sport, parliamo di pallacanestro, si sa quello è il lavoro che c'è dietro, e vincere è sempre molto molto difficile, quindi chi ottiene è un grandissimo merito. Mentalità. Assolutamente, mentalità la costruisci però giorno per giorno. Certo, e stagione per stagione, ma non c'è dubbio. Prima Flavio mi faceva notare tra l'altro che Siena quest'anno ha perso l'unica partita con la Fortitudo, l'anno scorso aveva fatto la sua beneficenza con Varese, le due squadre retrocesse su quelle che hanno battuto Siena nelle ultime due stagioni. Questioni statistiche, ci fermiamo adesso per la borsa, poi torniamo insieme. Vi ricordo i contatti 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Ha ragione Stefania che scrive, prima parlavamo di playmaker non playmaker, Turkoglu il più grande play non play degli ultimi anni. Brava Stefania, Turkoglu tra l'altro sta facendo dei playoff mostruosi dall'altra parte dell'oceano. Palla spicchi. Ecco che torniamo, lunga pausa, ma siamo pronti a ricominciare a riannodare i fili con un ascoltatore, Roberto della provincia di Milano. Con noi è rimasto naturalmente coach Attilio Caia. Vi voglio regalare nella conversazione fuori onda il quintetto ideale di Attilio Caia in questo campionato. Attilio, il tuo quintetto ideale del campionato. A noi l'hai detto, dirò agli ascoltatori. McIntyre, Jaber, Langford, Lavrinovic, Hudson. Sono d'accordo con Attilio Caia. Con Jaber, si può guardia, vincere l'Eurolega qua con questa squadra, sì. Si può battere Siena. Sì, sì, sì, sì. Jaber guardia, assolutamente, la miglior guardia del campionato. Però è un po' poco fisico per giocare guardia. No, molto fisico. Molto. Io l'ho visto fare degli zompi, dei salti, l'ho visto veramente sia a livello offensivo che a livello difensivo. Un difensore sulla palla come lui, eccellente difensore sulla palla. Cioè quando lui pressa il palleggiatore può veramente far, chi ha la palla in mano, far fatica a superare, che ha mani velocissime, arrivano da tutte le parti, sembra il vecchio Mike D'Antoni, Arsenio Lupin, lui veramente ti mette una pressione. Non solo tecnica, fisica, ma anche psicologica, perché può arrivare dappertutto, quindi veramente un grande giocatore senza palla. E io ti dico, fossi stato anche in Roma avrei insistito un po' di più, soprattutto in questa ultima parte della stagione, su Jennings, sì. Perché con Jennings da play e Jaber da guardia, la Roma aveva la miglior coppia di guardie difensive. E ti garantisco che sarebbe stata veramente dura giocare contro di loro, perché la difesa comincia da quello che riesce a mettere la pressione sulla palla, a essere aggressivi. Hanno una taglia questi due qua che sarebbe stata veramente, veramente incredibile. Due giocatori di Roma nel quintetto ideale del campionato di Attilio Caia, non è poco, eh? No, questo per dare la misura della... Io avrei tolto Langford per mettere Hawkins, ma alla fine, voglio dire, è questione di dettagli, non è che... Naturalmente. Roberto, provincia di Milano, e poi Enzo, provincia di Bergamo. Roberto, buongiorno. Buongiorno, niente, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, una considerazione. Io lavoro a Milano, però sono originario di Siena. Sì. Niente, dicevo alla vostra collaboratrice che dopo voi avete tessuto le logi di Siena, però andare a vedere che in campo non c'è neanche un italiano... Sinceramente non è che è una bella cosa per la pallacanestro italiana, visto e considerato che lo scorso anno, bisogna ricordare, la Moenzana ha vinto lo scudetto Under 19. Ecco. Sì. Volevo sapere che considerazioni ne facevate voi. Le considerazioni che abbiamo fatto mille volte. Tra l'altro adesso c'è la battaglia in atto, no? Lega, tra la Lega e la FIP, Lega Meneghin, sulla chimica delle squadre per l'anno prossimo. Tre extracomunitari, due comunitari, sei italiani, sembra la lista della spesa. Poi si cambia l'anno dopo a seconda che tu schieri 10 giocatori nel roster o 12, allora puoi avere tre extracomunitari. Insomma, sono tutti equilibrismi che io non vorrei più vedere. Io sono d'accordo con chi dice nel massimo campionato italiano definiamo pure un numero di americani, di extracomunitari, come è sempre stato, il resto lo fa il mercato. Sì, perché il rapporto qualità-prezzo deve essere quello che stabilisce chi deve giocare, non è che deve stabilirlo altre cose, perché se no, se tu obblighi a mettere dentro un certo numero di giocatori, se sono certi giocatori modesti che devono giocare, giocano solo perché devono perché c'è un certo numero, ma sono veramente modesti certi giocatori. Allora io penso che il campionato italiano va bene, ma alla fine nell'Inter non gioca neanche un italiano, però se gioca bene della squadra campione, vabbè, un tifoso guarda quello. Quando tu vai a vedere uno spettacolo, vai a vedere un cantante che ti piace, vai a vedere un artista, un'opera che ti piace, guardi quello che è, non è che guardi la nazionalità, la carta d'identità. Questo per quanto riguarda i giovani di Siena. Siena fa un grandissimo investimento a livello giovanile, poi dopo questi giovani continuano in altre società, in altre realtà e fanno un loro processo di avvicinamento. È chiaro che però il loro livello del campionato è talmente competitivo, certo. Però loro sono già riusciti a inserire Lechthaler. Lechthaler è un giocatore di Siena, ha fatto il suo settore giovanile a Siena, è riuscito, ha fatto l'anno scorso un'annata molto positiva a Montegranaro e quest'anno è ritornato a Siena, quindi un giocatore c'era. Cararetto quando è entrato è stato sempre positivo, perché ha fatto veramente anche in Euroleague delle partite importanti. Però alla fine quello che conta è che il rapporto, cioè se tu pensi che certi che McIntyre che è un giocatore nettamente guadagna forse come alcuni giocatori italiani della nazionale, però poi sul campo c'è un rendimento diverso. No, ma è chiaro, cioè, insomma, non è chiaro che tutti vorrebbero gli italiani, ma italiani di livello. Quello che facciamo noi non è un discorso contro i giocatori italiani, ci mancherebbe altro. Anzi, è un discorso che deve essere di spinta ai giocatori italiani. Se sei bravo, giochi, perché nessuno è così sciocco da preferire un americano, anche per i discorsi che abbiamo fatto prima. Chiaro che il giocatore italiano che va a giocare a Cantù vuole arrivare ai playoff, l'americano magari anche no, però deve essere tutto in logica di mercato. Poi è vero anche quello che dicono alcuni, dicono ma ci sono anche stranieri non di livello, stranieri scarsi. È vero, ma è sempre un problema di costi. Uno straniero scarso costa, non so, io facciamo 10, un italiano scarso costa 40. Allora, cioè, scarso per scarso, pago il gioco con 10, il gioco con 40. Per fare allenamento prendi il comunitario di turno. Enzo, provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e complimenti per lo spazio che date alla pallacanestro. Ecco, volevo saluto particolare al coach Kaya, al quale volevo fare questa domanda. Visto che conosce bene la realtà di Milano e Roma, visto che le ha allenate entrambe, nell'eventualità di una auspicabile semifinale tra queste due squadre, quale vede più attrezzata e in questo momento anche più favorita per arrivare a combattere con Siena in finale? E poi, se possibile, un augurio da parte sua alla nostra squadra di Bergamo, che so che segue ogni tanto, viene a vederla, che tra poco incrocerà nella finale di Serie C la corazzata di Piacenza con Divonis Conochini nella nostra finale. Grazie. Insomma, per quanto riguarda Roma e Milano, a parte che devono ancora arrivarsi, Milano sì. È già un passo avanti, Roma un pochettino meno, una partita importante può essere quella di stasera. Roma ha le carte in tavola, le carte in regola per arrivare più avanti. Roma ha un po' più di qualità. Milano forse da un punto di vista di di quadratura è un pochettino più quadrata, però io penso che alla fine nei playoff la qualità sia quella, il gradino che possa fare la differenza, quindi avere il giocatore di qualità ti possa dare quel permettere di vincere la partita, perché poi si gioca sotto grande pressione, la stanchezza continua a aumentare. Per Roma sarà molto importante preservare Bečirović, una buona condizione, essendoci così partite, così ravvicinate, per quello che sarebbe stato per loro più opportuno chiudere la serie con Biella prima possibile, per non spremere magari Bečirović nel tempo per le prossime partite. Però penso che Roma possa avere una qualità superiore. Nonostante troppi giocatori. Sì, però pasticciano rotazioni sempre molto strane. Esatto, però sai, io penso che poi le partite che conterà, dice, si guarda proprio allo specifico, al caso di vincere la partita, e non a volte gestioni per accontentare tutto e per essere felici. È interessante la partita poi di questa finale della Serie C, perché veramente vedere giocare, io ho visto anche la partita Bergamo contro Piacenza in stagione regolare, per giocare Boni e Sconocchini è veramente un piacere per la pallacanestro, perché è gente che ha alla loro età, gente che ha ottenuto i loro risultati, che ha vinto come loro quello che hanno vinto, perché veramente hanno fatto il top, però hanno uno spirito incredibile, hanno un atteggiamento di vero passione per la pallacanestro, sì, vero spirito per la pallacanestro, vero agonismo per la pallacanestro, e anche per gli altri non hanno assolutamente un atteggiamento, diciamo, da superstar neanche verso gli avversari. Quindi insomma, io l'ho visto, sono rimasto ben colpito e sarò presente a vederli anche alla fase di finale. Mario Boi è stato da noi 2 settimane fa, no? Va avanti fino a 50. Trasudava entusiasmo, insomma. È tutta energia pura. Palla spicchi. Torniamo per andare negli Stati Uniti, come detto, Simone Sandri, buongiorno. Buongiorno Carlo. Allora, Denver che fa il colpo a Los Angeles, ne abbiamo accennato prima con Coach Peterson, che partita è stata? 34 contro 32, il tabellone nella sfida dei pistoleri, Carmelo Anthony contro Kobe Bryant. Sì, assolutamente, immarcabili tutti e due in attacco. Devo dire che hanno fatto la differenza secondo me anche i lunghi, perché se Los Angeles ha una batteria invidiabile di lunghi, Gasol, Bynum e anche Lamar Odom, invece Kenyon Martin e Nene hanno giocato difensivamente alla grande, sono riusciti a limitare soprattutto Bynum, molto deludente, ha giocato solo 18 minuti, ma non mi è piaciuto proprio per niente il suo atteggiamento sotto canestro. Anche Gasol, soprattutto nell'ultimo quarto, è sembrato non voler prendere i tiri che solitamente prende e anche mette, e Odom che alla fine ha sofferto anche lui. Per cui alla fine, secondo me, la differenza l'hanno fatto la mancanza di incisività dei lunghi di Los Angeles, e Los Angeles sa di poter avere sempre un mismatch con la batteria di lunghi. È stato molto deludente questa partita dei Lakers, secondo me, e sommata anche a gara 1, dove Denver si è un po' fatta sfuggire dalle mani, una vittoria che sicuramente Denver poteva portare a casa. Adesso si ritorna a Denver, che è un campo difficilissimo, perché ricordiamo che Denver è un gioco in altura, per cui è anche difficile abituarsi andando solo il giorno prima. Non sarà così semplice per i Lakers come sembrava almeno all'inizio dei playoff. Bynum un po' un problema in questo momento per la chimica dei Lakers. Sono assolutamente d'accordo, infatti credo che il problema principale sia proprio l'atteggiamento di Bynum, perché ha dimostrato contro Houston per esempio di essere troppo altalenante, perché in certe partite è stato straordinariamente dominante, un giocatore che ha un atletismo fantastico, che sotto canestro veramente può fare la differenza, a queste braccia lunghe, ha un ottimo feel per le stoppate, per cui sicuramente un giocatore che può fare la differenza sia in attacco che in difesa, eppure è veramente incredibilmente altalenante. A volte gioca senza, secondo me, l'atteggiamento giusto, e i Lakers pagano dazio. Ma te la vedi una finale Orlando-Denver? Io onestamente no, ma non credo se David Stern può ha qualcosa a che fare con gli buca le gomme con gli altri. Adesso scherziamo, però sicuramente è ovvio che sarebbe l'incubo di David Stern, perché avere una finale con Kobe contro LeBron, che è quella che ovviamente tutta l'America si aspetta di vedere, è quella che tutti ci immaginavamo all'inizio, alla fine della regular season, all'inizio dei playoff. Pensare che adesso lo scivolone di Cleveland in gara 1, questi Lakers che non sembrano dominanti come avevamo previsto all'inizio della regular season, tutto può succedere. Io credo che alla fine il mondo girerà nel modo giusto, cioè alla fine in un modo o nell'altro sia Lakers che Cleveland arriveranno in finale, e sarà anche una finale molto molto tirata, però una cosa sicura è che è più difficile del previsto per entrambe le squadre. Grazie Simone, alla prossima. Grazie a voi. Questa notte, ve lo ricordo, 2:30 del mattino, diretta su Sky Sport per gara 2 tra Cleveland e Orlando. Marco, provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, mi interessava la risposta che è stata data all'amico di Siena, no? Riguardo alla presenza dei giocatori italiani nelle squadre, insomma, di vertice. E la cosa che mi interessa molto è qual è il sapere da Coach Kaya, qual è il meccanismo per cui appunto un giocatore scarso, tra virgolette, americano costa 10 e un giocatore scarso, tra virgolette, italiano costa 40. Io un'idea mia ce l'ho, ma ecco, mi piace qual è, sapere qual è la sua... il meccanismo perverso che porta a questo. Ma glielo spieghiamo subito, qual è la sua idea? Beh, la mia idea è che la perversione nasce probabilmente a livello giovanile, dove per esempio, parto da questo come esempio, Siena che vince lo scudetto Under 19 con giocatori poi probabilmente non tutti italiani, e questi ragazzi poi non se ne vede neanche uno nella prima squadra. Questi ragazzi dove vanno? Vanno ad alimentare un mercato diciamo di categorie inferiori. Mercato che secondo me è drogato, nel senso che i soldi non esistono, ma in qualche modo vengono trovati. Forse alimentato da procuratori con pochi scrupoli, forse alimentato dal fatto che questi giocatori sono protetti, no? Gli viene dato la possibilità comunque in qualche modo, no, di dover giocare. La parola chiave è quella, la parola chiave è quella, i giocatori sono protetti, i giocatori italiani sono protetti ed è questa la spiegazione, no, Attilio? È questione poi di numeri, il numero, cioè domanda e offerta, a livello di americani ce ne sono una svariata offerta e di conseguenza sono tantissimi, costano meno, italiani sono veramente pochi e questi pochi hanno delle richieste superiori. Dopodiché Siena è giustissimo il programma che fa, perché sarebbe un errore quello di tenere giocatori giovani, anche juniores, in prima squadra perché non potrebbero giocare. È giusto che finita lì ognuno vada a fare le proprie esperienze, vada a fare le proprie esperienze a seconda delle qualità e possa crescere, che chi parte dalla B1, chi parte dalla 2, chi parte da uno di squadre di A1 di un basso livello, fanno il loro percorso, poi strada facendo il loro percorso e lì poi ci si scontra con le proprie qualità, le caratteristiche caratteriali, le caratteristiche, qualcuno va meglio, qualcuno va meno bene, però qualcuno ci mette un anno in più, qualcuno ci mette 3 anni in più, però quello è il percorso giusto per i quali poi alla fine c'è la selezione. D'altronde, per arrivare alla squadra campione d'Italia, a una delle squadre più forti d'Europa, cioè ne arriva uno su tanti, quindi di conseguenza è normale. Io per esempio quest'anno a Udine avevo Lorenzo D'Ercole, che è un altro ragazzo di Siena estremamente interessante, è uno che è uscito da Siena, ha fatto l'anno a Livorno, la 2, l'ha fatta bene. Quest'anno è arrivato Udine, un'annata sfortunata, però ha avuto modo di farsi apprezzare. L'anno prossimo io sono convinto che possa giocare ancora un buon campionato, una squadra di A1 di medio livello e possa crescere e fra 2 anni essere pronto per poter fare quello che a Siena può far Carareto adesso. Quindi quello è un percorso assolutamente, certo, giusto, fisiologico. Tra poco andiamo al Giro d'Italia, però prima abbiamo parlato di Piacenza eccetera, c'è, questa sera ci sono anche le semifinali in Lega 2 con Casale Monferrato, che ha vinto domenica a Cremona contro Soresina. E questa sera una partita importante contro la Vanoli, può andare sul 2-1 e mettere le mani sulla finale. Dall'altra parte, Scafati Banco Sardegna con i sardi in vantaggio 2-0. Anche perché la vera finale, se si può dire, è Fasto e Vanoli, insomma, come accoppiamento, quella è la finale. Tra l'altro, a Casale c'è un giocatore che conosci molto bene, che sì, ti piace molto e che fa la differenza. Sono stato martedì sera a vedere in diretta gara 2 a Cremona e devo dire che è stata una partita assolutamente molto bella dal punto di vista tecnico, dal punto di vista agonistico, una partita estremamente interessante. Casale ha vinto con grande merito perché è una squadra veramente quadrata. Schulz. Il giocatore che diciamo prima è stato un giocatore che ha un inserimento eccezionale, quindi complimenti alla società e a Marco Crespi di avere inserito questo giocatore, che è colui il quale fa chiudere il cerchio e dà valore anche agli altri. Gli altri sono giovani molto esuberanti, giovani di grandissime qualità tecniche, atletiche. Schulz è un giocatore che ha la personalità, ha il carattere e sa fare, come diciamo prima, no? Il canestro giusto, certo, al momento giusto. Casale ha fatto un grandissimo passo e anche lì parliamo di una squadra, una società che ha avuto nel tempo una programmazione, certo, una grande programmazione, ogni anno ha inserito qualcosa e quindi anche adesso se è matura per dovrebbe, è matura. I tempi sono giusti quantomeno per una finale. Abbiamo un minuto per fare il punto sul Giro d'Italia. Voci dal Giro. Pier Augusto Stagi, poi avremo modo di raccontare la tappa di oggi più tardi. Intanto, a che punto siamo, Pier Augusto? Buongiorno. Ciao Carlo, sì, c'è una fuga di 3 temerari con Scarselli che tira come non mai, ma il gruppo sta reagendo nonostante Mark Cavendish, dopo solo 5 chilometri, sia stato costretto a mettere i piedi a terra a causa di una caduta, ma nulla di preoccupante. Il corridore dell'Isola di Man è risalito prontamente in sella dopo aver cambiato la bicicletta, è rientrato in gruppo. E adesso si sta viaggiando sul filo dei 50 all'ora in una tappa che è veramente piatta, tolta in un paio di occasioni, ma diciamo la volata è la conseguenza più logica, certo, di questa tappa. Di questa tappa e poi la racconteremo. Grazie per Augusto Stagi, più tardi al Giro d'Italia, ricordo lo speciale dopo il GR delle 19. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere il nuovo Transit Connect Turbo Diesel Common Rail a 6.500 euro. Attilio, chi lo vince il giro? Beh, io penso che Di Luca abbia, insomma, anche con il cronometro di ieri abbia, si sia difeso bene, quindi abbia buone chance. Sulle montagne può riprendere la rosa. Sì, sì, sì, abbia buone chance. Grazie a Coach Attilio Caia, grazie a Flavio Suardi, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia con lo sport. Naturalmente torniamo domani pomeriggio dalle 17 alle 18. Buona serata a tutti.